è l'uovo nuovo, non lo fa, dai. Ho preso, l'ho lasciato così. Ah, lasciato così, questo c'è la coscia vicina, la vacca Pinocchietto. Ne avevo un altro, avevo la cartina, ma mettesselo a posto. Ma mettesselo a posto, c'era qualche filo attaccato, c'era. Capito? Questo mi aveva dato Pinocchietto Moro. Il Moro. Vabbè, importante funziona. E adesso lascio stare acceso, tanto costa scaldare già. Cioè ci mette poco. E già non te le pagano, capito? Non che svenderla, per svenderla me la tengo, già mi la fuggo. Non mi fa né caldo né freddo. Una bella nuova, la voglio da poco, anche la pulita, perché dentro l'armadio, sai, nella manopolina si fanno gialline, e luce a luce, bella, ordinata. E poi è essenziale perché vaghi gli strumenti che si vedono da lontano, io metto in giro, come ti gioco. Bella, io la prima volta che l'ho vista mi sembrava un lineare di quelli da 1000 watt, 1500 watt. Io la prima volta che l'ho vista a casa di Walter, che stava andando a casa sua, lui stava parlando con Dac e con le Super Sidekick. Ho detto, che cazzo stai usando? Che c'è una bellissima radio. E lui mi ha detto, e dopo te lo faccio vedere, la cazzo che sto usando. Quando sono arrivato, ho detto, guarda, questa qui. E già voluto che ci uscire, ho detto, c'è un lineare, ma quale lineare questa qui? È la radio, mi ha detto. Claudio, io. Aspettate un secondo che rispondo al telefono. Gianni. Avanti. Davino. Come mi occupi? Bene, perché? Questo è l'Icoma, IC737. Va bene, Gavino, va bene. È positivo, mi è arrivato stamattina, mi è arrivato stamattina. 15 watt di portante bianca, 25 modulati. Questa qua è la regolazione sua. Beh, già va bene, Gavi, non è male, dai. È una radio, diciamo, normale, però va bene. Se lì ci metti un microfono tipo l'MC60, spara di più. No, ma con questa qua non si trasmette. Adesso mi ho messo il microfono perché ho sentito a Claudio, così mi dice una comparazione anche lui di questa cosa. E niente. Ho commutato un attimino l'antenna, perché qua ho una lupa magnetica collegata. L'HF, sì. E niente, ed è arrivata a casa stamattina. E io via. Bella, bella, va bene. Ma sei attaccato già? Cosa? Sei attaccato? No, no, non sono attaccato, sto uscendo col Cobra. Qua sei 9.30, 9.35 a picchi, quasi 9.40 con questa radio qua, eh? Questa radio schicchia, in bagnatela è da 100 watt. È positivo, sì, va bene, va bene. Ui, adesso facciamo girare un po' questa qua, dai, sono con il mic originale, e ti ripeto, l'RF Power è a minimo, guarda se migliora qualcosa, ora, guarda, ha migliorato un pochino, adesso è a metà, eh. Fai passaggi tutti e due che lo stavo guardando. Allora, così è come era prima, così è come era prima, e così è a metà. Ha cambiato qualcosa? Qua non vedo differenza, Gavi, tu mi sei arrivato 9.30 e 9.30 sei tutti due passaggi così, forse arrivi di più, però praticamente non si vede qua, arriva al massimo 9.30. No, la lascio come l'ho calibrata poco fa, con 15 watt di portante bianca, dai, 30 modulati. E sono in lei così, deve girare così lei e non di più, perché altrimenti la strappate, questa qua non è la radio da strappare. Pappaga, è bella quella radio. Beh, Sparvie, entri a voi di cui? Al telefono. Cioè anche l'audio è tutto diverso, l'audio è assurdo, E è presente come radio, non è amplificata, però è bella. No, parlo l'audio in ricezione. Parlo l'audio a ricezione, è assurdo, molto bello. Si fa 10-0 in ricezione sta radio. In trasmissione no, però in ricezione non ci sono, trasmissione che per la 27 forse è una delle poche radio che va bene, se non la, l'unica, dai, che va proprio bene, 27. Solo alcuni della Kenwood, non tutti, 140, 680, 430, quelli sono tutti quanti, sono tutti quanti apparati che vanno molto bene, 27. Sì, ma infatti 27 questa qua che sto usando non è forte come radio, come il Kenwood, però in ricezione è un mostro, in ricezione questa qua prende anche la mosca. Questo che sto usando, sai quanto costa l'apparecchio? Costerà 350 euro. Sì, 721 bus. Ma vai, cos'è il Cobra? Appa, il Cobra esce con 100 watt in banda laterale, 30 watt in AM. Come si chiama? Cobra? X2000. Non ce l'ho presente, aspetta che lo guardo. Ma questa è una stazione base già? Non è base, ma è grande, eh? Cobra 2000 GTL, quello lì è. Eia. Cobra 2000 GTL. No, aspetta. 200 GTL di X, ti ho detto, 200 GTL di X. Quello cromato, ma era... c'era anche Sandottire quello lì, se non sbaglio. Non lo so, mi pare che ne avesse un altro, non lo so. Sì, quello che c'ha la pancia sotto e dietro. Ah, quindi si fa pure uno sotto e uno dietro. Sì, sì, ce l'aveva anche Sandottire questa radio. Ce l'aveva anche Sandottire questa radio. Ehi, lo sai quanti la stavo cercando? Ne ho visto la rimessa in fulmine che la stavo cercando, ma non la do. Oh. Se la do la do per un HF, se no non le do. Sì, infatti, no, ma fai bene. Va bene, quello dico io, la radio bisogna prendersene quelle che piacciono. Qui 100 watt CSB, 30 watt in AM. Capita, tanto un tempo decidi il radio da fare. Eia. Sì, è bella. Quanto la stanno vendendo lì? 220 euro. 220? Sì, 220 euro. Ma guarda che cosa, questa radio costa 700 euro nuova. Minimo che la puoi vendere sono 400-450. Oh, già, non lo so. Così c'è scritto, così ti sto dicendo. Ma dove? Sul me? No. Su Transmitent... Non lo so, vabbè, non è da truffa. Sì. Perché ne ho visto diverse, vedi, tra tutte 500 euro, 470, 450, tutte così le stanno vendendo. No, ma costava 700, è una radio che... Cazzo, già lo vedi come esce. Sì, e beh, poi con quei finali. Kappa. Tratta da noi, tu sei da bassi di villani, no, che ho casino. Sì, infatti. Poi io, ma c'era al massimo tu. Adesso sì. C'hai vate regolabili? Sì, c'ho due scatti, c'ho il pulsante con due scatti, qua. Adesso l'ho tolto la potenza ed è normale, guarda, vedete. Vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso è normale? Sì. Vai, attacca a palla. Così attaccata a palla. Posso dire una cosa, attaccata a palla sei fisso. In bassa potenza sì, 9,30 a picchi positivi seri, io l'avrei tenuta in bassa potenza già. Così? Tu dici che va meglio così? Sì, ma non vado dallo smitter mio, come va la lancetta. È meglio, vero? Sì, c'ha picchi positivi a loro. Infatti, io l'avrei lasciata così perché molto probabilmente quella radio lì hai l'alimentatore che non riesce a sfruttarla tutta. No, la sfrutta bene, io l'alimentatore da 50 ampere, non è quello il problema. È che quando si computate è normale che la radio diventa diversa, lo so benissimo, che meno vattene più la radio è bella, più picchi, capito? E guarda quella che stavo usando ieri notte, hai visto come esce quel supertar con un watt e mezzo? Un watt e mezzo è perché chi ha problemi viene qua a casa, lo faccio salire sul tetto e controlla col watt, mentre controlla l'antenna quanti watt gli stanno arrivando. Kappa. No, vabbè, comunque mi sono combinato un raio con questa radio qua. mi sono preso uno spavento veramente grosso. Sono andato a accendere, non accendeva più, capì? E cos'era? C'era la sacca dell'alimentazione là dietro, cavolo, mi sono preso un raio. A volte è un casino, a volte è un casino. Oi, oi, allora siamo della Tendigiscio, riesce a vedere, è meno forte del tempo della radio, vero già questa qua? Ma già va bene, sì, è meno forte, è meno potente, però già va bene, capì? Se vuoi ti registro, te la faccio ascoltare. No, no, non c'è bisogno, non c'è bisogno. No, me lo immagino com'è, me lo immagino com'è. Magari sì, è proprio la voce mia in verticale, però perché che vuole più, più corposa, più, più da guerra. E che vuole, che vuole? Oh, io, ma anche questa qua già schicchia forte, dai. Sì, io pensavo che eri attaccato, io pensavo che eri attaccato, infatti te l'ho chiesto. No, con questa non posso attaccare niente, no? E minimo di volte che c'ha, mi pare che siano 15, non fa attaccare nulla. Ma è già attaccata con, se l'SSB esce con 100 watt. Sì, sì, sì, sì, devi prendere un lineare grosso di ingresso, allora usi, spacchi tutto, ma non, la cosa non cambia, la cosa non cambia. No, questo qua addirittura mi ha dato, ha fatto la scheda tecnica del lavoro che gli ha fatto, riallineato, è nuovo, è nuovo, è diventata una radio nuova. Guarda questa radio di gomma se funziona. Vai. Prova a vedere se funziona questa radio di gomma che sto usando adesso, 1, 2, 3. 9, 25, radio un po' cupa però è accettabile. Tu come mi occupi di lì, Franco? Senta, con 9.5, 9.10, radio 5. Io da qui quando ti arrivo lì. In bassa potenza sei 9.20 a picchi 9.35. In alta potenza sei 9.35 pieni. Cappa, cappa, già va bene allora. Ma io fra 6.80 ti do questo. Fra, quella è una proposta, Quella è una proposta. E se li vale tutti, Gavi, sto scendo male. Sto uscendo male? Ma ti sei allontanato? No, no, no, no, no, no, no, ancora male sto uscendo. No, ti sei abbassato di radio di colpo e uscivi come se fossi dall'oltretomba. Boh, non lo so, guarda ancora. No, o è cliccato male la portante, boh. Può essere, può essere. Avvisami quando c'è qualcosa che non va, Franco, quella radio ti ha fatto la proposta giusta, Gianni, Taglialo. Ma non penso proprio che dopo la radio. Ma non ce ne parla neanche. Vale più questo di quello tuo, lo sai. E vabbè, ma almeno io preferisco questa come radio. Ehi, vabbè, Gavi, lasciamo perdere. Con 680 stai uscendo, Fra. Cappa di positivo, pilotato con l'MC60. Beh, positivo. Io sto uscendo con un Licom 737, IC737, HF. Va bene, lo stesso, mi arrivi bene. 9.10, radio 5, perfetta, di lusso. Sì, 680 MC60. Aspetta, quando mi metto la penna sul tetto. Aspetta, Antonio, voglio i vasi. Vado di buona la penna sopra il tetto. Non fai nulla. Anche io sono sempre in zona più alta della tua, Antonio. Ma cambia tutto. Lo so, vabbè. Poi lo piloto con questo piccolo amplificatore che c'ho qua da 1000. Maledizione comunque. Però questa è una zona buona, non sopravvalutarla. Sì, vabbè, c'ho il giambaritto io, dai, valvolare. Non è che è da molti watt, da 200 watt. Portalo qua che lo proviamo. Gavi sempre 9.20, sto arrivando 9.10 da te. Oh, io Gianni sì, 9.60 io. Eia. Telefono. A tu. Ehi. Guarda adesso, a tu. Roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non prende più Smith, no, che se vuoi andare. Lo stavo provando a vedere se stava spingendo questo applicatore. Bene, va. Dove vuoi andare, o che a mare? Ma ce n'è più segnale. Ma no, non è che non ce ne sia più, però è fortissimo qua. Sì, adesso più là vediamo di sistemare la cosa. l'ho abbassato un po', altrimenti mi fa rientro. L'unico che mi arriva a porta è qua, insomma, di è Luca Flipper. Vabbè, sono a due bassi. Quello che mi si qui. Questo arrivi in bocchi, Gian Maria. E io anche come ti arrivo? A fondo scala, sì. Quanto è Gian Maria o più di meno? Gian Maria e Luca Flipper toccano il DB. E io non lo tocco. Quasi. Sì, è un bel forte. Vabbè, è qua, diciamo che è qua. Ma siamo vicini, gatto, no? Non si può provare da vicino, capito? E beh, è normale. È lontanate, provano le cose, no, no, da vicino, da vicino. Mi sono morendo, ti muro con un occhietto che arrivi. Beh, sì, eh. Anche con un VAT riesci, non c'è problema, capito? Gianni. Che sto chiamando? Oh, Davino. Avanti, chi chiama? Davino sono. Adesso sono di nuovo col Kenwood, tu mi? Di lusso. Capito già, di nuovo col Kenwood. Sei col Kenwood adesso? Sì, è cambiata la situazione. Di lusso. Va bene, capì. 9:20 Radio Super 5 di Lusso la Grande. A me come mi ascolti con questo? 9:15, e segnali TSA picchi positivi, la radio è sempre un po' cupa, però è presente. Non ci sono problemi. Oioia. Va bene, dai, riprendi già e fai girare. Andiamo tutti bene, dai. Gabriele, adesso ne hai due, gli apparecchi. Faccio un pensierino, se ti interessa ti do questo e mi dai Royais. No. Queste qua non si toccano. Queste qua rimangono qua, addirittura qua poco fa stavo entrando in internet per togliere in vendita anche il ricevitore, quindi queste non si toccano, no, perché ognuna di loro ha un'antenna, ognuna di loro lavora in una frequenza e quindi le lascio così. No, perché poi adesso lo sai cos'è il fatto già, che queste radio qua, tutte e due, sono state revisionate dal signore del radio, quindi sono a posto, sono revisionate, riallineate tutte e due, capito? Vabbè, non c'è problema, certo, ti ho fatto la battuta poi, vedi tu. No, la tua è una proposta, è una proposta di quelle indecenti. Non è indecente, Gavino. Questo apparecchio è ricercato un meme, e adesso non lo stanno più fabbricando, ed è ricercato un casino. Io questo qua l'ho pagato 450 euro, capito? Non era 700? No, 700 nuovo costa. Ah, ecco. Lo so. No, ma va bene, al momento va bene così, poi magari se mi sveglio un giorno di pioggia può anche essere, ma no, perché già sono radio che chi me l'ha venduta, per esempio anche il Kenwood e questo qua, cioè me l'hanno date e se le hanno cavate da bocca, quindi non sono pagate tutte, quello che c'è qua a casa è tutto pagato, capito? Non preso a sacco barato, pagato, quindi le tengo perché mi fa piacere tenerle, me le date due persone serie, quindi non se vuoi ti do Superstar 3009, mi cambio di questo. Franco è andato da qua, può essere. Aspetta, ti sta portando il 680 a casa tua. Carlo, lo sai che con questa radio ti sento magnificamente bene? Già, ti sta portando il 680. Davino? Sì, dimmi Antonio. Ti sento magnificamente bene con questa radio. Scusa Antonio, dottore, aspetta che c'ho. Dimmi Antonio. Che ti sento perfettamente bene. E forza è perfetta. No, i cavuti escono bene, maledizione. I cavuti escono bene. Non puoi, guarda, è regolata senza strapazzarla, capito? Quindi sto uscendo tranquilla, senza problemi, senza tirare il collo. E niente, la lascio così. Ciccia. L'ha avuto un burro. Sì, questo è il Kingwood, poco fa ero con l'Icom. Oh, ma caparanone. Vabbè, non c'è più nessuno. Fa proprio bene con la radio. Ma caparanone, Kingwood. Mi sta sollevando, mi sta salendo il QRM quanto. Cioè quasi a 9, cioè, il QRM è quasi a 9, io qua un casino. No, io non le ho. Ho detto, ma caparanone. Gavi, cambio radio un attimo. Sì, già, entro subito. Bisogna che dopo mi fai la ponte con Antonio perché non lo ricevo. Ho il QRM altissimo io qua adesso. Ho detto, neanche a paragone con quella radio, però lì funziona bene. Buonasera Mirko, buonasera. Buonasera Gavino. Buonasera Gavino, buonasera Gianni, Antonio e Mirko D'Alghero, che l'ho sentito adesso chiamare, io acceso, ho sentito. K, ciao Mirko e ciao anche a Carlo, vai. Buonasera, stavo attaccando l'altro apparato perché avevo un po' di splatter e allora ho attaccato questo che non prende splatter. Mirko, sta dicendo a me, K, qua mi stanno disturbando e non riesco a parlare, non riesco, si sono messi a parlare i canali vicini. K, Mirko, ve lo do il controllo adesso, guarda per cortesia come sto uscendo. K, gatta. Avanti Carlo, buonasera. Carlo deve essere che sta telefonando. Può essere. Avanti, riprendi tu anche, lo senti a Mirko? No, assolutamente no. Vedi cos'è il problema delle antenne, se non c'è un'antenna buona non riesci a ascoltare, casino . No, un'antenna sul tetto, l'avevo detto tra i capi di fuga, l'avrei ascoltato un po' più libero. Anche quello, K. Quindi Mirko, io ti ascolto sempre, dai, sei diciamo abbastanza tranquillo come radio, come Santiago. K, Mirko, dai. Ti ascolto abbastanza bene, allora come va? Che mi racconti di bello? Ma legna tagliato ne hai? Hai abbastanza adesso di legna per scaldarti, K. Sì, è fatto bene a tagliartela, così almeno ce l'hai pronta, quando ti serve non fai altro che metterla nel camino, o nella stufa a legna, anzi camino non ne hai, vero? Bianco per me. Cappa tu. Cappa, e vabbè, interessante che scaldi tutta la casa, poi che sia il cammino, che sia stufa a legna, se ti conviene con la legna, fatto bene che hai preso quella. Ti ha dato il cambio del lavoro che gli hai fatto, ma già va bene lo stesso, da tanto ti serviva, no? K, dai, già va bene, dai. E a pescare lo stai andando, ti fa male il ginocchio? No, non fallo, dai. Magari dal molo è più tranquillo. E c'era un periodo dove c'era il molo della finanza che si bisticciavano perché erano scappate le latte dal sacco, diciamo, dove c'era l'allevamento. C'era rotto e erano scappate tutte le latte, si azzuffavano per il posto. Ma pescavi sempre latte di allevamento. Le fuggiasche, quelle che sono fuggite, sì, infatti, almeno mangiano quello che dovevano mangiare, no, le porcherie che gli danno, chissà cosa gli danno, quelle farine che gli danno, cosa c'è. A me un amico mio mi ha detto, non prende un latte di allevamento perché non sa cosa c'è quella roba lì. Io quelle d'allevamento non le prendo quelle nostrane, non le prendo mai d'allevamento, le pago di più però almeno so cosa mangio, perlomeno penso di mangiare roba buona, almeno che siano inquinate anche quelle. Guarda, praticamente questo amico mio lavora in un allevamento, mi ha detto che le danno farine animali, porcherie di tutti i generi, grassi, di tutte le cosette, non le mangiano. mangiare quell'allevamento perché sono allevate con cose schifose. Ma scusa un attimino, Antonio, avanti, Antonio ha chiuso. Avanti, almeno avanti, non c'è più nessuno, pensavo che ci fosse qualcuno che cammino fosse rimasto, invece nemmeno lui c'è. Gianni. Vabbè, non c'è rimasto nessuno sul 10. Gianni, ti stavo chiamando. Perché sono andato sul 20 a vedere chi mi stava disturbando, adesso ho capito. Ho capito. No, io ho un QRM assurdo qua, a 9. KK. No, io ho lo splatter, che di solito questa apparecchi splatter non rimbicia niente, ma è troppo vicino. Chi è? Vabbè. Aspetta. Adesso sono con il Ruiz, come sta andando? Ma Inzu, dammi un segnale con il Ruiz a vedere come ti arrivo, se arrivo più forte o più basso dell'altro. Come va con Ruiz? Sì, Gianni. Dai, volevo sapere come ti arrivavo con il Ruiz. Dove vieni? E adesso che ho aumentato la potenza del coso, il baracchino. 9.35. Ma la radio era meglio prima. È meglio così, vero? KK. Vabbè, questo che adesso l'ho acceso per farlo girare un po'. Ogni tanto ne accendo uno, dai. Adesso domani tocca 3.009. Perché il 3.009 sono un po' che non lo sto usando. Vabbè, già mi piace, già mi piace. Solo che c'avevo splatter oggi e non è che vi capivo bene. Un po' di splatter c'ho. E vabbè, tutti hanno diritto di parlare. Però, cavolo, uno non è che si mette 10 canali, mi sta splatterando. Quella è la legge del più forte. Ma tutti lo possono fare il forte, ma a me non me ne ha fatti nulla. Io quando mi disturbano prendo e spengo, non me ne frega niente di fare più forte, anche se lo posso fare. No, vabbè, però i 10 canali già non è che sia, cioè non è nell'11 o nel 12, nel 20. E pensa se uno prende da tassa e si mette a parlare con il canale di Porto Torres nel 12. Anzi, sono perché sta parlando con uno di Porto Torres, quindi sono stati anche un po' di delicatezza andare sul 20 e non disturbare, perché il canale di Porto Torres, non di Porto Torres, il canale di Giusa Porto Torres è 12. Stanno parlando di tassa e uno di Porto Torres, quindi hanno avuto anche un po' la cortezza di andare un po' più in là per fare delle prove. Quindi dai, non si sono comportati male. No, non sto dicendo questo, sto dicendo solo che a volte solo una persona che mi disturba e basta, gli altri non li sento nemmeno, ma perché siamo vicini, dai, non è che ci siano problemi. Si dà mille luci, non me ne frega niente. Io cerco sempre di evitare di disturbare gli altri, ma vabbè, non è una futilunda. Lasciamo perdere. Non lo so. Non so che dirti, sono sul 20 e sono 10 canali in più, quindi va bene, poi hanno fatto la luce un attimo, adesso mi metto un attimino e poi rientro. E appunto 10 canali in più, sai che sono spuglie quelle lì, ma sono spuglie, non è possibile. Dipende anche dal tipo di radio che si usa, perché io sono convinto che se vado due canali, se vado per esempio a distanza due canali neanche mi senti con 40 watt, quindi sono tutto spuglie d'antenna, quello è vero. Se no non mi avrebbe disturbato, perché questi sono abbastanza selettivi gli apparecchi, specialmente in lui, se non piglia colpi di nuda, è proprio difficile. Però apparati modificati, decini volte, ma decini tutta furia. Purtroppo è così. E va bene, dai. Poi infatti la luce, allora io tanto sto uscendo con il cane, dai. Perché si sta lamentando, deve essere vuole scendere giù. Non so manco che ore sono. Sono le 7.25, è l'ora di portarlo, dai. C'ha ragione. Lui va a orario. Dai, ti lascio, Gavi, magari stanotte se accendi ci sentiamo, dai. Qua è sempre acceso già, vai tranquillo, quando è fare una chiamata e io ci sono, ciao. E mi mangio qualcosa e poi entro, dai. Ciao, ciao. Attenzione CQ10, Mirko Alghero C6. Ciao Mirko, sono Carlo, prima ti ho fatto entrare però ho avuto un problema alla radio, si è spento tutto e quindi adesso sono con la radio che ho in macchina e quindi volevo sapere se mi sentiva qualcuno, se avevo fatto bene i collegamenti in fretta e furia, sai. Niente, ho detto provo a chiamare Mirko se mi sente, ma a questo punto lascio tutto così. Sì, adesso sto usando la piccolina, l'altra si è spenta, non so che problema abbia avuto, si è spenta mentre parlavo e niente, poi ho provato a fare qualche tentativo, si accendeva un attimino e si spegneva, non so se è il fusibile interno che è partito oppure proprio partita la radio. E l'altra radio era un Albrecht 5850. Ce l'avevo da un annetto, ha sempre funzionato bene e adesso stasera mi ha fatto questo scherzetto. No, sempre in stazione, quella lì era sempre stazione fissa. Sì, in questi giorni ci sono stati alcuni sbalzi di tensione e mancata anche la corrente diverse volte, quindi non so se può essere qualcosa del genere, insomma, Mirko. No, negativo, sono a casa, oggi riposo, rientro domani sera, lavoro. Sì, fai pure il cambio microfono, non ti preoccupare. No, per quanto mi riguarda, l'impianto è tutto ok, l'alimentatore è ok perché ho collegato quest'altra radio e funziona tutto, per cui mi devi solamente dire se per esempio adesso ho aumentato il segnale rispetto a prima, guarda un po' adesso, è ok, allora sta funzionando tutto qua, sì, funziona l'alimentatore, funzionano le vitamine, funziona tutto, funziona la radio, quindi a questo punto, andando per esclusione, qualcosa che è successa alla radio internamente, dovrò aprirla e controllare se c'è qualche fusibile partito o qualcos'altro. Ok, fai pure il cambio microfono, Mirko. Mirko! Avanti! Antonio, ciao Antonio, ma scusa, non è un rapporto? Non ve lo vedi Radio 5, non rientrato Carlo? Sì Antonio, sono rientrato, prima stavo parlando e invece mi si è spento tutto, problema alla radio penso, adesso ho recuperato quella piccolina che ho in macchina, già sta uscendo, l'impianto funziona tutto, i collegamenti sono tutti a posto, per cui niente, sicuramente qualcosa che ha appunto la radio, domani se ho tempo, quando avrò tempo la apro e vedo un po' cosa è successo all'interno, niente, sto aspettando Mirko che mi ha chiesto se lo aspettavo che deve trovare un microfono, quindi doveva scollegare e ricollegare. No, il fusibile l'ho controllato col tester ed è a posto, si vede anche il filamento, tutto attaccato. L'alimentazione passa, però non si accende più la radio. Claro. Attento Carlo! Franco, arrivi forte e chiaro qua da me. Carlo! Eia, dimmi. Ah, mi ascolti, sì. Sì, ti ho detto forte e chiaro qua da me. Ho provato a piazzare quell'antenna che aveva tutto stamattina, l'ho provato a vedere come mi ascolti. Con quella stai trasmettendo. Cappa. Ma per adesso qua mi arrivi bene, non so dove tu sia, in che zona sia, e mi arrivi, io adesso ho i LED in questa radio piccolina e li conosco meno dell'altra, per cui mi arrivi con penso un Santiago di 8. Cappa. E qua sei forte. Facciamo, vediamo se è rientrato Mirko che doveva provare un microfono. Vai Antonio. Vabbè. Sì, anche qua mi arriva forte, la radio, già c'è una radio buona in macchina, l'ho vista e già va bene, che stava provando un'altra antenna, che stamattina l'ho data io quell'antenna piccolina, però già fa il suo dovere, dai, sulla Citizen Band va bene. Io l'ho messo a posto dell'altra, la stavo provando, giustamente come stavo uscendo. tutto qua. Ah, tornate, arrivo bene lo stesso. Andiamo via. Va bene Carlo, dai, già va bene. Stazionaria non ce n'era, no? Era già tarata questa antenna. Sì, l'avevo tarata quella sulla base magnetica, poi non so, tu l'hai messa sull'attacco tuo, sulla macchina. Sì, fai uguale l'attacco. Sì, tanto il cavo e l'attacco è identico, va bene. Magari è più piccolina, più pratica quella, forse, mi confermami quello, non so come la vedi tu. Vabbè, l'altra sparava un po' di più perché era più lunga come antenna. Può essere, però quella già funzionava così, a livello locale funziona bene, poi io l'ho usata nella lunga distanza, non è che rendesse più di tanto. E a lunga distanza va bene, non è che esce più di tanto, no. In città va bene, magari quando sei fuori dà un po' di problemi perché è più piccola, capito? E io prima stavo parlando, c'era Gavino, stavo appena entrando e avevo sentito un break di Mirko e mi si è spento tutto, capito? Gappa per lei. Ma sto scendo liscio, eh? Yes, anche io qua sto scendo liscio. Due passi di radio tu scendi? Già va bene qua, non so in che zona tu sia, ma qua se la radio è Super 5, segnale è 8. Vabbè, ma tu devi considerare che io sono in zona d'opera, sono in via Pace, in via Nurra, dai, è coperto dai palazzi qua. E allora già va bene. Vediamo se Mirko è rientrato. Mirko, ci sei, l'hai fatto il cambio microfono? Ancora no, allora, perché doveva saldare un filo, dai. Antonio, chi c'è? Oltre Antonio, Franco, gli altri sono tutti andati a cena. Meno male che c'è Franco. Franco, e dove sei arrivato adesso? Sono sempre lì a Pasqua, sto aspettando la mia compagna, è andata a fare una commissione qua. Ah, ok, quindi sei fermo, dai, però già da via Pascoli arrivi forte, è chiaro qua. No, non sono in via Pascoli, sono coperto da palazzi in via Nurra. Ho capito, via Nurra, dai. Via Nurra bassa o alta? Via Nurra bassa, so. E quindi sei quasi in via Pascoli, allora, dai. Sono coperto da un palazzo, dalla scuola, sono in mezzo ai palazzi adesso. Cappa, già arrivi bene. Ragazzi, adesso ho provato a fare la segretaria. Perché a guarda adesso come mi ascolti, meglio? Io a voglia, adesso si è aumentato. Insomma, in seconda adesso. Già va bene, così, fondo scala qua. L'ho staccato, se no mi crepa la batteria, ho fatto. No, stacca, già si sente lo stesso. Buona sera, una piccolina che mi ha regalato Carlo, sto usando, a tu. È una di quelle piccoline della Midland, quella che ha le rotelline in acciaio per la taratura, capito? No, non sto usando quella, sto usando l'altra, quella più robusta. Ah, ok. Perché quella lì era monotonesa, diciamo, era 150. Questa mi sa che è 250. Ah sì, forse quella ha un limite di watt in uscita, capito? Se no si scioglie tutto davvero. E l'altra l'hai provato oppure l'ha presa Tonino l'altra? No, l'ha presa Tonino l'altra per piazzare. Perché l'altra mi sa che era sino a 300 di watt, quindi l'altra era più, diciamo, resistente. L'altra era 150 e questa era 250. Ah, capo, e quanti ne hai perché tu tre? Caspita. Vabbè, io sto pilotando con l'applicatore, quello grosso. Ed ero poco fa, ero in seconda posizione perché non lo posso aumentare al massimo e mi crepa la batteria, 17.4. Ehi, a capo, vediamo se Mirko è rientrato, che mi aveva chiesto la cortesia se lo aspettavo, che doveva sistemare l'umidità e quindi già crea un po' di problemi, dai. Bene Mera, dai, ci sentiamo Anto, buone cose e un bacio al tuo piccoletto. Ciao. Magari se c'ha le colichette gli dà un po' di fastidio adesso, già gli passano, però magari ha mangiato da poco. Ora c'è tranquillo. meglio così, dai, ci sentiamo dopo, rimango un po' in ascolto, una mezz'oretta, si chiama Mirko, perché mi aveva detto se lo potevo aspettare, che voleva provare il microfono, se chiama bene, se no anche io poi me ne vado a cena. Ce la risentiamo, Anto, ciao, buon tutto. No, non ero che ho mangiato la prima. Aia. Un gatto, un po' buono. Ieri ho mangiato fainé io. Non ne posso mangiare, mi piace, ma so che poi... la moglie lì, c'è la rimane. Evidentemente non la tolleri molto. Mi abbroccio da voi. Va buono, dai, ci sentiamo, ciao.